questa prima abitazione, questa nostra casa, ho detto, è di Dio, è casa di Dio, è officina di Dio, è fabbrica, stabilimento, bottega, bottega d'artista, bottega d'artigiano, di Dio, è tempio di Dio. Qui Dio ha voluto venire nella nostra stessa carne e rimanerci 33 anni. Poi i discepoli, gli apostoli, sul Monte degli Olivi, l'hanno visto salire, e hanno detto, l'abbiamo visto salire nei cieli. Per andare dove? Quanti strati di cielo ci sono sopra di noi? Nessuno li conterà mai. Comunque, Dio li supera tutti infinitamente. E quella è la seconda nostra casa, al cui confronto questa qui sulla terra è un niente, poco meno di niente, poco meno di niente. E adesso, amici, veniamo. Avete mai sentito dentro di voi, non dico da ragazzi, ma da giovani, e adesso che stiamo diventando persone concrete, avete mai sentito un senso di nientitudine? Tutto è niente. Oh, l'avete sentito, eh? Guardate che questo sentimento qui fa scuola più che tanti libri. Chissà, magari dopo una bella passeggiata, una gita, una festa, una sagra, un banchetto, una partita, non so che cosa, tutto è niente. Dopo una giornata di corse di qua, di là, ti butti a letto, tutto è niente. Non disprezzatelo questo sentimento, perché fa scuola. Un giorno, guardando indietro, anche lo scienziato Guglielmo Marconi considererà tutto nulla. Non mi interessa più nulla, cercatemi il sacerdote che mi aiuti a dire il Padre nostro che è nei cieli. Questo essere trascendente, la sua casa è la nostra seconda casa. In questa prima casa ci siamo di passaggio provvisoriamente, in quella staremo stabilmente della stessa stabilità di Dio. Dio non invecchia. Dio è sempre stato, e noi in quella casa ci staremo per sempre, perché l'anima dell'uomo, la morte non può nemmeno sfiorarla, toccarla. Spirito è spirito, incorruttibile, immortale. Impossibile calcolare la durata della nostra vita nella casa di Dio. Come non è possibile calcolare l'età di Dio, non sarà possibile calcolare la durata del suo paradiso. Noi veniamo dall'Eterno che ci ha creati, apparteniamo all'Eterno che ci conserva in vita, siamo diretti all'Eterno come destino ineluttabile. Fortunati noi, tutti noi abbiamo una seconda casa, anche i più poveri e i più abbietti. La seconda casa.